Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Quando la pianta tira su il ferro, poi diventa di ferro, è carina, la metti in anticamera. Sì, la usi come scultura. No, in realtà parliamo proprio di queste piante che vengono dette iperaccumulatrici, e proprio quello che accumulano è proprio il ferro. Sono anche piante disinquinanti, Federico, e di questo vogliamo parlare con Angelo Massacci. Benvenuto. Grazie e un saluto a tutti. Benvenuto. Lei è direttore dell'Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale del CNR ed è qui con noi oggi per raccontarci di queste piante, che possiamo chiamare piante in tanti modi, piante tampone, piante disinquinanti, che potremmo collocarle ai bordi dei nostri campi agricoli per poter in qualche modo accumulare nelle loro foglie, nei loro fusti, i metalli pesanti che fanno tanto male alle piante vicine. Sì, sì, oltre ai metalli pesanti, ovviamente tutto quello che circola nelle acque dei campi agricoli, quindi anche fitosanitari, prodotti di fertilizzazione, erbicidi, tutte quelle sostanze, insomma, che gli agricoltori disperdono sulle colture per proteggere la produzione di queste piante. Sono piante specifiche, cioè soltanto alcune hanno queste caratteristiche. Esattamente, in genere le piante hanno dei limiti di tolleranza nei confronti dei contaminanti, e alcune di loro invece si dimostrano particolarmente resistenti, cioè possono assorbire contaminanti e diciamo non subirne la tossicità, quindi possono trasferire a livello radicale i contaminanti che si trovano nel suolo, possono traslocarli anche nelle foglie e quindi sequestrarli in modo non dannoso per la pianta stessa. Cioè non muoiono subito, magari però muoiono dopo un po'. Esattamente, comunque possono morire quando i livelli di concentrazione di questi contaminanti nelle foglie superano dei valori soglia, cioè i valori che queste piante hanno, diciamo, intrinsecamente, cioè possiedono sia per la loro capacità di distruggerle con particolari attività metaboliche, sia la particolarità di sequestrarle, quindi renderle innocue in speciali compartimenti isolati dal resto della pianta. Ecco, immaginiamo ad esempio un campo di gran turco, poi come ci immagineremmo, insomma, di costruire una sorta di anello di queste piante tampone attorno? Beh, innanzitutto occorre che diciamo i contaminanti arrivino a corpi idrici ricettori, cioè a canali, fiumi, eccetera, che sono nelle vicinanze di un campo agricolo. Quindi la cosa migliore è di creare una barriera, una fitobarriera, che attraverso l'apparato radicale di queste piante assorba sia fisicamente che chimicamente i contaminanti che vengono, diciamo, diffusi con l'acqua durante periodi di pioggia oppure attraverso, diciamo, situazioni di irrigazione intensa. Impedendone la diffusione verso l'acqua, trattengono questi contaminanti, diciamo, all'interno delle radici o sulle radici, attirano queste piante, attirano microrganismi, perché oltre ad assorbire questi metalli essudano sia sostanze carboniose utili per la proliferazione di batteri e di funghi, sia ossigeno che serve alle piante ovviamente, o comunque ai microrganismi, sia a livello radicale che sui microrganismi, servono per condurre alcune attività metaboliche importanti. Quindi questi contaminanti rimangono immobilizzati sulle radici e vengono distrutti dai batteri, dai funghi presenti nei dintorni delle radici. Un agricoltore deve stare attento, insomma, deve in qualche modo manutenere anche questo anello intorno, o diciamo che si autogestisce? Fa tutto da solo. Beh, ci sono innanzitutto degli insediamenti vegetali naturali contorno a queste acque, se non vengono eliminati dalle pratiche agricole, diciamo, ci sono già stabilmente, sì, delle canne per esempio si vedono spesso una vicina ai corpi, diciamo, ecco, le canne sono alcune di queste piante iperaccumulatrici. Alcune piante, sì, alcune di queste piante sono proprio le canne, cioè piante che hanno un apparato radicale molto esteso, molto denso, quindi all'interno di questo apparato radicale si crea una nicchia dove crescono questi batteri molto attivi nella degradazione. Le chiediamo però adesso, quando queste piante comunque muoiono, dove le mettiamo? Perché se non stiamo attenti rimettiamo ferro in ambiente. Certo. Diciamo come o sostanze metalli tossici, sì. Ecco, il ferro è un elemento essenziale per alcune piante, per quasi tutte le piante. Sì, queste piante possono essere ovviamente tagliate, raccolte, poi possono essere sottoposte ad essiccamento e bruciate con particolari accorgimenti, diciamo, filtri che impediscono la loro emissione nei fumi, nell'ambiente, nell'aria. Ok, quindi smaltiti, diciamo, con un meccanismo. Con una certa attenzione, ma il loro lavoro l'hanno fatto. Sì, sì, sì, sicuramente, ma adesso per esempio oltre a queste attività ci sono molti esempi dove queste piante vengono utilizzate proprio per riqualificare aree anche, diciamo, non solo agricole ma industriali. Anche, dico industriale, certo. Ci sono per esempio delle arboree che sono particolarmente abili, come dicevo prima, a stimolare la proliferazione batterica nel loro apparato radicale. Possono essere per esempio cresciute in modo molto denso, cioè fino a una pianta per metro quadro. Piante di questo tipo sono per esempio i pioppi, che accelerano i processi naturali di degradazione delle sostanze contaminanti fino a 10 volte quello che avverrebbe in natura senza presenza di piante. Dunque abbiamo fatto una sperimentazione di pioppi per la bonifica, per il fitorimedio, nella Valle del Sacco, in provincia di Roma. L'abbiamo associata anche alla produzione di biomassa. Contemporaneamente quindi abbiamo ottenuto una bonifica di questi suoli agricoli con pioppi nelle fasce, diciamo, vicino al fiume, e la produzione di biomassa che è utilizzabile per, diciamo, come termoconversione per produrre energia termica e energia elettrica. Va bene, grazie, buon lavoro davvero Massacci. Grazie a voi. Buon lavoro. Per questa puntata è tutto. E questo era Foodlab.